Ho imparato a non aspettarmi niente da me stesso. Le mie belle parole m'hanno abbandonato. Se non ho mantenuto quello che ho promesso, giuro ci ho provato, ma non sono mai cambiato. Fare meno anche dei miei istinti, ma poi cosa sarei? Sono abbastanza perso mentre penso ai cazzi miei. Cos'è la libertà? Io che ho le manette in testa, ora che nulla ha più senso ed è finita anche la mia protesta. Oggi è già domani, in questa cella a cielo aperto, e io sono un illuso, cerco acqua nel deserto. Non ho vissuto niente, eppure ho visto tutto, così tanto che ho l'occhiaio addosso di un'anima in lutto. Per ogni lacrima tenuta, 10 ne han versate, anche le mie paure sono lì dove l'ho lasciata. Adesso che i miei errori più o meno li ho capiti, e mi chiedo i miei ideali dove son finiti. A volte ci son cose a cui nemmeno credo, a volte ci son cose che nemmeno vedo. Continuo a cercare la calma in terremoti quando sono immerso nei miei spazi vuoti. Ho capito che quest'ultimi sono come i contanti, nel senso che impazzisci quando ne vuoi tanti. Faccio a meno di entrambi, eppure ne ho bisogno, mentre continuo a chiedermi che ci sto a fare al mondo. Io che non vedo più che folletti di vetro che mi spiano davanti, che mi ridono dietro come Dante nel cantico. E non ho i nervi saldi, naufragare non m'è dolce, al contrario di leopardi. Sei stufo dei miei pezzi, non sono mai contento, pensa che li ho inventati e ci sto pure dentro. Ma dritto dal cuore, con ragione e sentimento, parlo di ciò che sento, cazzate non le invento. Il destino non esiste, è una circostanza, e io mi sento vivo solo quando scrivo nella stanza. A chi parla bambera, mai data importanza, perché questa musica m'ha dato una speranza. Ogni testo che registro per me terapia, non saprei spiegartelo, parlo di magia. E alzo anche la voce, sono un pazzo quel che sia, ma almeno anche stavolta t'ho detto la mia. A volte dico cose a cui nemmeno credo, a volte ci son cose che nemmeno vedo. Continuo a cercare la calma in terremoti quando sono immerso nei miei spazi vuoti. Ho capito che quest'ultimi sono come i contanti, nel senso che impazzisci quando ne vuoi tanti. Faccio meno di entrambi, eppure ne ho bisogno, mentre continuo a chiedermi che ci sto a fare al mondo. Che ci sto a fare al mondo. Che ci sto a fare al mondo. Che ci sto a fare al mondo. Che ci sto a fare al mondo. A volte dico cose a cui nemmeno credo, a volte ci son cose che nemmeno vedo. Continuo a cercare la calma in terremoti quando sono immerso nei miei spazi vuoti. Ho capito che quest'ultimi sono come i contanti, nel senso che impazzisci quando ne vuoi tanti. Faccio a meno di entrambi, eppure ne ho bisogno, mentre continuo a chiedermi che ci sto a fare al mondo. Che ci sto a fare al mondo? Che ci sto a fare al mondo? Mentre continuo a chiedermi che ci sto a fare al mondo.